che tremava suo aspetto, ella volia questa santa novilla di celeste virtù aspirando il suo cor. Il piacere li pare di intera la coppa potor dell'amor. Oh, per me qui fu ben ardita. Let's go.